giallo e nero. Tra i misteri della cronaca con Daniele Biacchissi. È una cosa molto grave. Dalla parte sul fondo di Piazza Navona c'è una squadra di poliziotti, perché non possono essere altro che poliziotti, perché stanno anche insieme ai poliziotti in divisa, che sono armati, abbiamo visto, sono in borghese, difficilmente riconoscibili, perché non erano nemmeno il solito abbigliamento dei poliziotti, ma con chiaro il solito modo di travestirsi, un po' mezzi per passare per manifestanti, sono tutti armati di pistola. Questo è un fatto molto grave, perché ovviamente in queste condizioni possono succedere le cose più incredibili in situazioni di questo genere. Un colpo secco interrompe il racconto del parlamentare Mauro Mellini a Radio Radicale. È il pomeriggio in cui qualcuno sparò alla 19enne Giorgiana Masi a Roma, sul ponte Garibaldi. 12 maggio 1977 a Roma. Il Partito Radicale chiama a raccolta i militanti in Piazza Navona. C'è in programma una manifestazione per gli 8 referendum promossi da Marco Pannella. Non vi è alcun divieto da parte delle forze dell'ordine. Oltre ai radicali sono presenti gruppi della sinistra extraparlamentare e collettivi autonomi. Intorno alle 13 aumenta il flusso delle forze dell'ordine che presidono il centro della capitale. Molti di loro sono in borghese. Nuclei speciali antiterrorismo, dimostreranno le fotografie pubblicate il giorno dopo dai quotidiani. Alle 15.45 partono le prime cariche della polizia contro i dimostranti. 2 ore dopo si sentono gli spari. Giungono dietro ai plotoni di polizia colpi secchi, fuoco proveniente da pistole di ordinanza. Marco Pannella a quel punto interviene in Parlamento. Prima che delle persone sospette di poter essere dei manifestanti fossero giunte in quella zona di Roma, si stanno lanciando, caricando le persone, creando un turbamento all'ordine pubblico sul quale qualsiasi malintenzionato può, fra mezz'ora, un'ora o 2 ore, creare quello che evidentemente da parte di alcuni ambienti ufficiali si è cercato di creare. E proprio in quell'istante gli autonomi ingaggiano scontri con polizia e carabinieri. Bottiglie Molotov, spranghe, catene, lancio ripetuto di sassi nei confronti della polizia. Come conferma una concitata Emma Bonina in una telefonata a Radio Radicale. Le ultime notizie ci dicono che un signore che abita a Campo dei Fiori sotto il tetto si avverte adesso che autonomi o presunti tali che sono riuniti a Campo dei Fiori stanno distanziando la piazza. L'appello mio è quello che si mantenga calmi, non si accettino provocazioni di nessun tipo. Finora la violenza è stata dichiaratamente da una parte sola, e cioè solo dalla polizia. Credo che questo tutti i giornalisti, tutti i fotografi presenti lo potranno confermare. È stata una provocazione voluta, fatta, messa in atto. Chiedo a tutti i compagni, a tutti quelli che intendono manifestare oggi, proprio per il diritto a manifestare, di non accettare provocazioni di nessun tipo e di riuscire a isolare chi tenta appunto di far passare la solita teoria che sarà ripresa, quella degli opposti estremismi, violenza dappertutto, da tutte e due le parti, eccetera. Le 19.55, parte d'improvviso, preceduta da un fitto lancio di lacrimogeni, una carica da parte dei carabinieri e dei poliziotti, attestati su via Renova. Giorgiana Masi ed Elena Ascione, 19 anni, vengono colpite quasi contemporaneamente. La Masi è al centro di Piazza Belli, la Ascione mentre fugge verso Piazza Sonnino. Le testimonianze sono concordi, i colpi sono stati sparati da Ponte Garibaldi, dove in quel momento al centro si trovano carabinieri e poliziotti appoggiati ad uno o due autoblindo. Le vittime vengono accompagnate all'ospedale. Giorgiana ci arriverà ormai senza vita. 13 maggio 1977, in Parlamento interviene l'allora ministro dell'Interno Francesco Cossiga. Descrive ciò che secondo le istituzioni è avvenuto sul ponte Garibaldi a Roma la sera prima. Non basta non lanciare Molotov, non usare le spranghe di ferro, non ricorrere alle armi da fuoco. È necessario non aprire la porta, anzi è doveroso chiuderla a chi bombe Molotov, spranghe di ferro, P-38 ha usato e lascia usare, approva o almeno non condanna che si usino. Le modalità degli incidenti di ieri, con l'uso dei consueti mezzi di aggressione, che certo non possono considerarsi manifestazioni di non violenza, e culminata con l'uccisione di una giovane e col ferimento di altre persone, dimostra la giustezza della posizione del governo. Riteniamo che non vi sia nulla da rimproverare alle forze dell'ordine, le quali per il ristabilimento dei condizioni di sicurezza pubblica sono legittimate dalla legge a usare permesse e decisione e che anche in questa occasione hanno dimostrato di aver grande senso di prudenza, e di moderazione pur vedendo cadere ancora una volta uno dei propri appartenenti. Con l'occasione non posso trascurare dall'esprimere il più vivo apprezzamento del governo per il comportamento delle forze dell'ordine e in particolare per l'arma dei carabinieri e per il corpo delle guardie di pubblica sicurezza che sono stati impiegati nella circostanza. Essi hanno dimostrato particolare fermezza, senso di equilibrio, senza lasciarci coinvolgere dalle numerosissime provocazioni, fatte anche di insulti sanguinosi contro di essi lanciate, al fine di evitare la degenerazione degli incidenti che avrebbe potuto avere ben altre più gravi conseguenze se l'azione di contenimento non fosse stata adeguata. E ai rilievi mossi da Francesco Cossiga risponde poco dopo il leader radicale Marco Pannella. Allora io penso che la obbedienza alla legge suprema costituzionale, non quella mistica, non c'è problema di integralismo, ma alla lettera della Costituzione, ai principi fondamentali, comportano per il non violento se vuole reagire contro lo scontro delle violenze contrapposte, di classe e di Stato, dell'oppresso che si libera o dell'oppresso che diventa disperato, oppone appunto giorno dopo giorno quello che fu il principio fondamentale che il processo di Norimberga cercò di imporre a voi tutti e che avete dimenticato, il dovere di disobbedire agli ordini ingiusti. Voi siete tutti qui a ricordarci una visione di Stato etico e non di Stato di diritto. Allo Stato etico non si disobbedisce, al Ministro di Polizia che fa arbitri giorno dopo giorno, che latita, che difende a priori prima di aver fatto l'indagine comportamenti suscettibili di essere stati assassini, un Ministro quindi che non assolve ma proscioglie prima di conoscere i fatti. Ad un ministro di tal fatta si ha il dovere di disobbedire per la dignità del cittadino e del Parlamento. Il dialogo, la tolleranza sono non violenza, passano attraverso il no a quel che riteniamo essere invece qualcosa che offende la legalità degli altri. Il 27 aprile 2003 Francesco Cossiga rilascia un'intervista al programma di Rai 3 Report dedicata al segreto di Stato. Cossiga nutre dubbi sulle circostanze relative all'uccisione di Giorgiana Masi. Un brano del programma si porta al centro dell'ultima polemica. Le immagini erano ancora in bianco e nero e l'età di Giorgiana Masi rese ancora più crudele quell'assassinio. Ultimo anno di liceo, scientifico. Una ragazza che studiava e disegnava da professionista, andava alle manifestazioni accanto agli operai o per il Vietnam o per Valtreda e anche, perché no, per il referendum. Giorgiana scappava, c'erano le cariche della polizia e la polizia in borghese, qualcuno vestito da manifestante, un proiettile, l'ha colpita alle spalle. Cossiga disse: mi dimetto da ministro se mi dimostrate che le forze dell'ordine hanno sparato. Ecco le immagini. Cambiano i tempi, arriva il colore, l'assassino di Giorgiana è ancora a piede libero e forse non sa che anche i genitori sono morti, di crepacuore, prima la madre e poi il padre. Ecco, è quello, credo che io non lo dirò mai, anche se mi dovessero chiamare davanti all'autorità giudiziaria, perché fu il magistrato che condusse l'inchiesta, che mi insegnò questo dubbio. Mi insegnò a me, ad un altro funzionario di polizia, insomma sarebbe una cosa molto dolorosa. Perché sono coinvolti i servizi? No, non sarebbe doloroso. 2005. Francesco Cossiga sostiene che Giorgiana Masi può essere stata colpita da fuoco amico, cioè da colpi vacanti sparati da dimostranti. Ma l'inchiesta sull'uccisione della giovane si chiude il 9 maggio dell'81. Il giudice Claudio D'Angelo archivia il caso perché sono rimasti ignoti i responsabili del reato. Nessuna verità, nessuna giustizia. Un vizio, una sorta di abitudine per questo paese.